So, there's a cash point about 5 minutes' walk away. And in a moment, you'll learn the directions for getting to it. But first, let's look at the phrase... Ce n'è uno. There is one. In this case, it refers to the masculine word... Bancomat. But listen to what you say when it refers to... Banca. A feminine word. Ce n'è una. Now answer the following questions in the pause using the correct form of uno and adding the street name... In Via dei Cimatori. After you hear the correct answer, repeat it. Cominciamo. Scusi, c'è un supermercato qui vicino? Sì, ce n'è uno in Via dei Cimatori. Scusi, c'è un forno qui vicino? Sì, ce n'è uno in Via dei Cimatori. Scusi, c'è un telefono qui vicino? Sì, ce n'è uno in Via dei Cimatori. Scusi, c'è una banca qui vicino? Sì, ce n'è una in Via dei Cimatori. Scusi, c'è un ufficio postale qui vicino? Sì, ce n'è uno in Via dei Cimatori.